Buongiorno a tutti i radioascoltatori e bentornati ad Ohne Grenzen, l'appuntamento con la Germania di Radio Wombat. Apriamo la seconda stagione della nostra rubrica con un soffio di positività. Qualche settimana fa, infatti, il 13 ottobre, si è tenuta a Berlino la manifestazione Unteilbar, ossia indivisibili, contro l'ascesa delle nuove destre per una società antirazzista, antisessista e antixenofoba. Rispetto alle 40.000 attese, 250.000 persone si sono riunite ad Alexanderplatz. Radio Wombat era presente per capire che aria tira in Germania. Colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Grazie per il tuo tempo. Vuoi raccontare qualcosa sulla tua associazione e perché siete qui oggi? Sì, io faccio parte del gruppo per un mondo senza imperialismo e confini. L'obiettivo di questo gruppo ha riconosciuto che l'essenza della cosiddetta crisi migratoria, il fattore determinante, risiede nella politica di oggigiorno, che utilizza questo tipo di problematiche per fini personali. Bisogna bloccare lo sviluppo della destra in Germania e in Europa, ovunque è così. Direi che in Italia sia un passo avanti, con la Lega in Parlamento. Noi vorremmo contrastare a questa politica significa un grande numero di persone che si riuniscono e si riversano per strada e che riconoscono la soluzione a questa crisi migratoria non all'interno di questo sistema politico, bensì fuori, perché il sistema che ha creato questa crisi non la risolverà. La crisi non si risolve da sola, bensì con un movimento di protesta nelle strade, non solo una volta come accade oggi. Bisogna vedere poi cosa succederà successivamente, non lo posso dire, ma deve avvenire regolarmente. Bisogna portare la gente nelle strade. Questo sistema capitalista imperialista non troverà la soluzione ai nostri problemi. Noi siamo qua per informare la gente e comunicare la nostra prospettiva. Vuoi aggiungere qualcosa che per te è importante? Sì, ritengo importante che oggi ci sia così tanta gente per strada. Più siamo, meglio è. Che così tanta gente oggi manifesti per dire non vogliamo questa destra, vogliamo vivere in un altro tipo di società e che questo è capace di mobilitare la gente. Ecco, dobbiamo salutarlo come positivo. Noi siamo un'organizzazione di giovani comunisti, un'associazione ancora relativamente giovane che si è scelta il compito di ricostruire il movimento e la coscienza di classe dei lavoratori in Germania. Oggi siamo qui alla dimostrazione soprattutto perché vogliamo schierarci contro le nuove leggi a favore del potere della polizia, che vogliono a Berlino ma anche in altri stati federali tedeschi. Noi siamo dell'opinione che queste nuove leggi riguardo la polizia vengano dirette soprattutto contro il ceto basso, contro i lavoratori, perché tra tutti sono al primo posto nel confronto con la repressione della polizia, lo sgombro dalle case e così via. Tuttavia bisogna dire che questa manifestazione è supportata da tutte le organizzazioni possibili, anche da quelle parti della società che devono essere criticate, come l'SPD e così via, che sono qua ma sono anche i principali responsabili di povertà, di migrazioni, perché conducono guerre e lasciano che le persone vivano in condizioni miserabili. Queste organizzazioni sono al contempo responsabili dell'entrata delle destre in Parlamento, quindi dobbiamo tracciare chiaramente una linea di divisione da queste organizzazioni e criticarle in modo decisivo. Politisch schon umsetzen und tragen. Insofern muss man sehr deutlich eine Trennlinie ziehen zu diesen Organisationen und das auch deutlich kritisieren. Chi siete voi del Junge Welt Zeitung? E perché qui oggi? Oggi distribuiamo il giornale gratuitamente, così che venga conosciuto l'opinione del nostro giornale contro l'informazione mainstream. Questa giornata è molto colorata e abbiamo l'opportunità di distribuire il giornale, che non riceve finanziamenti statali. Io lo faccio privatamente, per me, così da sentirmi meglio. Lo leggo da 3-4 anni e mi posso identificare molto bene con le opinioni qui espresse. Lo faccio volentieri e il Junge Welt ha scrittori bravi, ma non è questo. È una questione di verità e bugie. Grazie per la domanda. E il Junge Welt è un giornale originario della DDR? Sì, esiste da 70 anni, è stato istituito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e ovviamente ha superato la DDR. È un organo importante perché supporta ed è solidale anche con altre organizzazioni. In 50 anni di DDR è sempre stato un giornale apprezzato. Io lo conosco solo da 3-4 anni e lo leggo volentieri e con approvazione. Oggi saranno distribuiti circa 10.000 giornali. Ok, vielen Dank. Posso averne uno? Di cuore e buona giornata. Du darfst hier sitzen, doch fast besser gar nichts an. Blumen nicht die Taschenuhr, schon gar nicht meine Hand. Wär so okay für mich und eigentlich was ändert sich vom Reden über Themen, die uns eher doch beschämen. Dass man sich wieder sieht, lass ich gern geschehen. Kinder, wie die Zeit vergeht, lange nicht gesehen. Scheint so okay für mich und eigentlich was ändert sich vom Reden über Themen, die uns eher doch beschämen. Du auch wenn Sonne scheint, nett gemacht. meint, ich schließe lieber die Fenster, stell die Heizung an, das hilft bestimmt gegen die Gespenster in der Ferienzeit, öde Zeit, manche legen Brände, stell die Heizung an, das hilft bestimmt gegen deine Hände, sind wie November, verstreichen auf die Tage im Kalender. Am Anfang war's nicht ganz so leicht, ich hab's ja fast geahnt. Scheint so okay für dich und eigentlich was ändert sich vom aufgeregten Streiten über Unverbindlichkeiten. Zu sehen. Er führt ein gefragtes Leben, weil es in ist, an seinem Bart jedes Haar zu sehen. Er mag es eben, für tausend Jahre zu reden, um uns gut zu unterhalten, wie die Tagesthemen. Ach ja, er ist jetzt der Mensch, Mensch, alle schreien Mensch auf, weil jeder seinen Trend kennt. Er sagt, jeder Fan flennt, weil seine Band brennt. Du, auch wenn Sonne scheint, nett gemeint, ich schließ lieber die Fenster, stell die Heizung an, das hilft bestimmt gegen die Gespenster in der Ferienzeit. Öde Zeit, manche legen Brände, stell die Heizung an, das hilft bestimmt gegen deine Hände. Sind wie November, verstreichen auch die Tage im Kalender. Deine Hände sind wie November, verstreichen auch die Tage im Kalender. Per noi, in quanto sinistra, è importante mostrare solidarietà contro l'odio, il razzismo e l'emarginazione. Bisogna semplicemente stare da questa parte, soprattutto al giorno d'oggi, in cui le destre si rafforzano. Sì, lo stesso. I miei genitori erano giovani adulti al momento in cui la guerra è finita e si sono vergognati per tutta la vita di non aver fatto niente contro la dittatura nazista. Io trovo che oggi la situazione è simile. Per quanto riguarda la situazione migratoria, come successe per gli ebrei, qui si lascia la gente semplicemente morire e questo non può essere, non va bene. Non so quanto si possa ottenere, ma fare niente non è possibile. Credete che da oggi si formerà un movimento? Lo spero, ma sono molto scettica. Non lo so. Mi rallegrerei se il partito di destra non ricevesse ancora più voti. Sarei già più calma se i voti non aumentassero. Sì, per noi è importante che la tendenza che vediamo con lo sviluppo dell'AfD non si radichi nelle menti della gente, bensì che finalmente si faccia una politica umana, che è lì per bisogna fare una politica completamente diversa, che sostenga la gente e che non la spinga nelle braccia della destra, che le persone non scelgano un partito che non gli offre alcuna prospettiva. Sarebbe importante una politica della pace che non esporti armi, che faccia un commercio economico equo e solidale e non avremmo il problema di questo movimento delle masse. Queste erano alcune delle voci in piazza. Sentiamo adesso le considerazioni prima di una rappresentante del movimento femminista queer, dopodiché dei giovani lavoratori cristiani ed infine dell'Union Berlin, organizzazione calcistica impegnata nel sociale. Sono qui oggi soprattutto perché è importante mostrare che molte persone nella società sono contro il nazismo, ma ho portato questo cartello, il capitalismo divide, dal momento in cui il motto della manifestazione è indivisibili. Lo trovo difficile perché la società è molto divisa. Il capitalismo ci divide in diverse classi e gruppi che dovrebbero lavorare l'uno contro l'altro. Per questo sul cartello è scritto anche per una nuova classe politica queer femminista, perché trovo importante che si attui una vera politica contro le destre anche a livello morale, che si affianchi e comprenda diverse lotte e rivendicazioni, e che il queer femminismo non è contro la classe politica come invece spesso è riportato. Cosa secondo te deve essere riportato all'attenzione dell'opinione pubblica? Trovo che in una grande manifestazione come questa la critica al sistema capitalista sia troppo tenue. C'è tanto amore e lotta all'odio. Tutto questo è importante, ma bisogna comprendere dove è situato il problema. Come mai ciò si sviluppa in Germania dell'Est, ad esempio, dove esiste un livello di povertà maggiore? Trovo molto bello che tu faccia una trasmissione radiofonica al riguardo. Per quale radio lavori? Radio Wombat. War nur der Homo-Dance, Homo-Dance. Alle tanzen den Homo-Dance. Sì, noi siamo i Christliche Arbeiterjugend, ossia i giovani lavoratori cristiani, e siamo qua perché difendiamo la causa dei diritti umani. E nell'associazione stessa ci sono molti giovani che sono immigrati qua da altri paesi. E vogliamo a proposito sostenere che non esiste alcun privilegio dei diritti umani, e sosteniamo che nessuno dovrebbe essere confinato e che ogni uomo ha gli stessi diritti. Grazie, vorresti raccontare qualcosa per te importante? Sì, da noi nell'associazione viviamo in maniera eterogenea, in modo variegato, o almeno così pensiamo, perché da noi ci sono molti giovani con diverse origini e formazioni, e abbiamo fatto l'esperienza che bisogna parlare gli uni con gli altri, dobbiamo discutere, ma poi si arriva sempre a buone soluzioni, e pensiamo questa sia la via. Quindi bisogna applicare la prassi democratica alla vita di tutti i giorni. Perché porta una maglietta dell'Union FC? Allora, innanzitutto io sono un membro dell'Union, e l'Union FC si impegna molto nel sociale, e per questo siamo connessi con la realtà e siamo contro il razzismo e la xenofobia. Per questo non solo io, ma tanti dell'Union sono scesi in piazza. Quindi un'associazione calcistica che supporta e sostiene i valori di antirazzismo e antifascismo. Unione è qualcos'altro rispetto ad un'associazione calcistica. Noi ci impegniamo molto in società. Ad esempio, abbiamo iniziative in cui abbiamo trovato e sistemato dei locali per accogliere queste persone con esperienze migratorie. E l'Unione sostiene questo, una società solidale. Ich stehe lässig an der Bar und trinke einen Drink. Plötzlich stehst du da, meine Kinnlade sinkt. Wow, es ist Liebe auf den ersten Blick. Du wirfst mir einen davon zu und ich werf ihn zurück. Wir kommen schnell in ein Gespräch über Gott und die Welt. Du glaubst nicht an Ersteren und Letztere zerfällt. Du findest Kunst kacke, aber magst Tupac. Es gefällt mir erstmal sehr, was du so von dir erzählst. Urban Music, Street Art und Graphic Novels, what the fuck? Du kennst nur Graffiti, Rap und Comics. Currywurst mit Pommes ist dein Lieblingsessen. Du verprügelst zwei Backpacker, weil sie Freestyle rappen. Ich bin verliebt, doch irgendwie beschleicht mich ein Gefühl, dass du irgendetwas sagen wirst, das ich nicht hören will. Irgendwas mit Esoterik und Verschwörungstheorien, dann wäre alles für die Katz. Wir könnten uns nicht lieben. Also laufe ich so schnell ich komm, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst, das mir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nix hören. Nur ein dummer Satz würde alles zerstören. Dann will ich nicht mehr verliebt in dich. Dann will ich nicht mehr verliebt. Ich ging schlecht gelaunt auf das Slime-Konzert. Dann traf mich Amors Pfeil in mein eisiges Herz. Du bist aufgefallen, denn du warst ausgefallen. Der einzige schöne Mensch in einem Haufen Punks. Ich fasste Mut und lud dich ein auf tausend Schnaps. Doch eigentlich wollte ich sofort mit dir zum Traualtar. Denn deine Gags waren noch lustiger als meine. Und du tagtest mit Schuhcreme an die Scheibe. Ich fing an zu flüstern, ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose. War klar, dass das klappt, du gingst mir sofort in die Hose. Später machten wir einen Abgang und klauten uns ein Fahrrad. Jetzt rauchen wir Bong auf der Parkbank. Du bist so klug, du zitierst Oscar Wilde. Doch ich hör nicht zu, ich stelle dich mir vor im Hochzeitskleid. Dann hör ich wieder hin, du fängst leider an zu schwafeln. Das ist der Moment, in dem die Zweifel in mir wachsen. Also laufe ich so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst, das mir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nix hören. Nur ein dummer Satz würde alles zerstören. Dann will ich nicht mehr verliebt in dich. Dann will ich nicht mehr verliebt. Ich steh drupp wie Jupp im Club und blamier mich. Tanze wie ein ganz verwirrter Mann, Anfang 40. Ich fühl mich fehl am Platz. Aber schwuppdiwupp stehst du da, machst die Bewegung nach. Wir drehen ab, verschmelzen zur größten Blamage der Tanzfläche. Anstoßen, anlächeln, Breakdance, Battle, Headspin zu anstrengen. Stress anzetteln, einstecken, Handbrechen, achtkantig rausziehen. Und dann chillen wir vom Hütchen, Handgelenk mit Billigbier kühlen. Philosophieren über dieses und jenes, schwierige Themen, die ich niemals verstehe. Du bist mir überlegen, du Genie, du erniedrigst mein Ego und jedem ist klar, ich bin dumm, du bist schlau, deshalb steh ich nur da, krieg den Mund nicht mehr auf. Also laufe ich so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass ich was Dummes sag, das dir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nix sagen. Nur ein dummer Satz würde dich gleich verjagen. Dann wärst du nicht mehr verliebt in mich. Dann wärst du nicht mehr verliebt. Also laufe ich so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass ich was Dummes sag, das dir nicht gefällt. Solltest du mich finden, will ich nix sagen. Nur ein dummer Satz und du würdest mich schlagen. Dann wärst du nicht mehr verliebt in mich. Dann wärst du nicht mehr verliebt. Per concludere, gettiamo uno sguardo al Sud America, soprattutto in Brasile, con il pericolo Bolsonaro. Infatti, purtroppo, è recente la notizia che Bolsonaro ha vinto le elezioni brasiliane. Ma già il 4 novembre 2018 c'è stata una manifestazione a Berlino contro il nuovo governo brasiliano. Sono un membro dell'associazione Union por la Paz, Insieme per la Pace, un'associazione colombiana, e siamo qua assieme al blocco latinoamericano per manifestare contro il razzismo e a favore della tolleranza, per dire che tutti noi abbiamo un posto in questo paese. Cosa pensi della situazione in Latino America? La situazione in Latino America è in generale molto difficile. Le destre tornano lentamente al potere. Ad esempio in Colombia e adesso in Brasile è molto pericoloso. La Colombia sta uscendo adesso da un processo di pacificazione e si potrebbe pensare che si sta arrivando ad un livello di pace per la popolazione. Ma oggigiorno gli attivisti sono arrestati e controllati più che durante la guerra. Questo è molto triste e pericoloso. Quindi è anche un obiettivo della nostra organizzazione agire qui dall'estero e mostrare all'Europa cosa sta accadendo là adesso. Altro? Sì, che qui diverse organizzazioni di sinistra, uguale da quale paese, devono agire insieme per fermare il razzismo e le destre. Non sono solo in Germania e in Europa, ma in tutto il mondo. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille. Oh, thank you very much for your time. Ciao, hai un cartello con scritto in Brasil e le now. Perché questa scritta? Perché questa settimana abbiamo avuto il primo turno delle elezioni in Brasile e la frazione di un candidato fascista ha vinto. Se vince le elezioni è qualcosa di molto grosso, lo vedremo il 28 di ottobre. È molto omofobico, machista, sessista e razzista. Rappresenta l'odio. Ed ha tenuto un discorso d'odio in cui afferma che se sarà eletto legittimerà le sue parole. I follower di Bolsonaro sono folli, ciechi e pieni d'odio, stanno già violentando la gente. Ci sono già stati casi di persone uccise perché non hanno votato per questo fascista, bensì hanno votato per l'opposizione. Donne picchiate, già 15 casi in una settimana dal primo turno delle elezioni. È davvero pauroso per tutti coloro che sono in Brasile. Se sei gay, nero, se sei LGBT, se sei una donna, è pericoloso. Dobbiamo combattere il fascismo. Cosa è Elenao? Elenao è un hashtag che significa lui no, non questo candidato. Dal primo round soprattutto le donne si sono mobilitate. C'è stata una grande protesta in Brasile con questo hashtag. Ci sono altri candidati che puoi votare. Se vuoi votare l'ala destra non importa, a meno che tu non voti l'estrema destra e questi fascisti. Sono anche militari, a favore della tortura. Il suo vicepresidente è anche lui parte dell'esercito, anche i ministri che vuole mettere in Parlamento sono militari. Quindi stiamo andando verso un colpo di Stato. Elenao è resistenza e significa lui no. È stato ucciso un ragazzo qualche giorno fa, giusto? Il ragazzo che è stato ucciso si chiamava Moé, era un maestro di capoeira, conosceva molto delle tradizioni afro in Brasile ed era molto importante per la cultura afro nel nord-est del nostro paese. È triste che sia stato ucciso perché rappresentava sembrava una minoranza. Già la comunità afro soffre un forte razzismo. Abbiamo avuto 300 anni di schiavismo. E uccidere una persona con la sua cultura significa cercare di cancellarne la cultura. Perché è stato ucciso? Era in un bar ed è arrivato un sostenitore di Bolsonaro che ha chiesto per chi avesse votato. Moè ha risposto di aver votato nella frazione opposta, il partito di Lula. Hanno iniziato a litigare e alla fine è stato accoltellato 12 volte. Come è percepito il partito di Lula adesso? È molto difficile perché il suo partito è stato votato le ultime 4 elezioni. Quindi non so, credo abbia fatto molte cose positive, ma la gente è stanca, soprattutto nella classe medio-alta, e vogliono cambiare accusandolo di tutta questa corruzione. Sicuramente sono corrotti, ma non di più di qualsiasi altro partito in Brasile. E chi accusa l'FPD lo fa solo a livello della corruzione. Cosa ridicola, perché la corruzione è sistematica in Brasile. Nel sistema, per avere la possibilità di entrare in politica, devi essere corrotto. Ecco perché è così difficile. Le accuse sono talmente forti che la gente è preoccupata di votare l'FPT, tanto da votare per i fascisti. Anche coloro che non lo seguono, anche se pensano che sia uno stronzo, lo vota pur di non votare l'FPT. Anche persone della mia famiglia che hanno privilegi votano per questo candidato, solo perché non è FPT. Vuoi dire qualcos'altro? Elino! Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan. Das Warten, war es wirklich dein Plan? Dann verschwindet die Zeit, darauf du ihn hier. Wolken schlagen Salty, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, was du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist zu weit. Und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir, im Jetzt und Hier und dem Tag am Meer. Nelle interviste avete ascoltato come alcuni dei movimenti protestavano contro le nuove leggi a favore del potere della polizia per le strade. A proposito di questo, vorrei sottolineare che in Baviera è stato recentemente approvato un decreto che permette ai poliziotti di girare per le strade con granate. Diciamo che in Germania si sta, nemmeno troppo lentamente, si sta velocemente attuando una politica di restrizione per cui si permette ai corpi armati di vigilare per le strade anche con armi di una certa portata, come appunto delle granate, delle bombe a mano. Vorrei inoltre aggiungere che alla manifestazione era presente una grande rappresentanza del movimento NAVDEM, che è il centro della società democratica delle curde in Germania, un'associazione che vede sedi in quasi tutte le città della Germania e che in questo caso manifestava contro le truppe di occupazione turca in Kurdistan e in Siria, soprattutto ad Afrin e Rojava. Con queste informazioni concludo la trasmissione e vi ringrazio per l'ascolto. Arrivederci e alla prossima puntata.